Cari, benvenuti a noi, il delicatissimo quanto gradito compito di aprire questa presentazione ai nostri fratellini minori disarmoni, anagraficamente parlando. Abbiamo la fortuna di condividere un'esperienza musicale insieme, siamo della stessa etichetta, possiamo dire, no? E siamo molto contenti di intrattenervi mentre loro si preparano a questo show bellissimo che andranno a presentare qui. Noi siamo i Pietramante, ovvero metà dei Pietramante. Noi siamo quelli brutti dei Pietramante. Poi dopo c'è, immaginate il resto, insomma. Non siamo abituati a suonare in due, quindi ci perdonerete. Le mancanze. Thank you. grazie. Mi rimetti un po' di rispetto che questo non posso usare, ma in feedback. Allora faremo qualche canzoncina dal nostro disco di esordio che puta caso esce domani, infatti lo presenteremo domani però a Roma, insomma. Comunque chi è di passaggio a Roma, siamo a San Lorenzo. A prendere la scopa del micro. La fa. Questa volta le scarpe. Sì, questo pezzo si intitola Il prurito. Anche in bocca la prendo. Quanto sono coraggio? Coniugare questo ossimoro che è la chitarra acustica col distorsore. Io di solito sono una chitarra elettrica, ma mi supporta questa bellissima chitarra da 100 euro. Però non vedo una scopa. Not difficile, potendo stare in nozze. Pezzo vogliamo strappare stasera, abbiamo una polistrumentista e questo non sono molto in mood con la serata, che sarà tutta molto elegante, eh. Io sto facendo un po' la cosa da festa di paese, però il gazzù vale questo. dal vivo ama fare questa cosa, non so perché. Allora, mentre cambio e prendo lo strumento, quello che costa un po' di più, faccio anche una canzone di un altro gruppo che si chiama Pedro Ximenez, che è il mio gruppo, perché Francesca, secondo me il fine ultimo di ogni cantautore è anche quello un pochino più alternativo, è fare una canzone che secondo me si può fare anche in spiaggia con una chitarra. Io ci ho provato, però mi è venuta da un minuto, quindi insomma prendetela un po' un esperimento così. Può essere anche un vantaggio. No? 'Sto pezzo, come avrete capito, noi amiamo anche un altro cantautore oltre noi stessi, i Disarmoni, che viene dalla Sicilia e ha fatto 3 pezzi in siciliano nella sua vita. Il primo che ha fatto è questo qui. Comunque non si è sentito tanto la differenza tra 100 e 200 euro. Allora, il prossimo pezzo è ancora un pezzo nostro tratto dal prossimo, domani esce, insomma. No, esce il 22 in realtà, domani c'è l'anteprima, ma il 22. L'album, diciamolo, si chiamerà È per mangiarti meglio. Allora, la prossima canzone è di un altro cantautore che ci piace molto, non fortunato come Franco Battiato, ma più bello. Ma sì, indubbiamente. Thank you. come stai? Bla bla bla, io come sto? Bla bla bla bla, che senso c'è a unir parole con le altre? Che senso c'è? Qui non si arriva a niente. Grazie. Te lo faccio io, guarda. Allora, noi chiudiamo, prima di ringraziare i Disarmoni e chi ha organizzato questa serata, che questo posto, mi dicono, è una delle prime cose che ci fanno musicalmente, dico una cavolata, però è bellissimo. E di invitarvi, perché da terzi si può anche ascoltare questa cosa, ovviamente chi non l'ha già fatto, di acquistare il CD dei Disarmoni, che siamo tutti qui per questo. Sono bravissimi. Al contrario, no. No, noi stasera siamo qui, insomma, per intrattenere il gentile pubblico. E per intrattenere, cosa meglio di questo pezzo, che è l'unica cover che facciamo veramente col gruppo, con le Tremante. E perché ci ricorda quando eravamo giovani. Sì, Gino torna. E in tasca appena degli spiccioli per il tram, in tasca un fogliettino. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma salvare infiniti quando sei qui vicino a me, questo più si sveglia, ma non esiste più, io vedo il cielo sopra. Abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo, suona in armonica, mi allora abbiate pazienza 10 minuti che sistemano, da quello che ho capito, un impianto luci, una performance luci di Simone che ci lascerà, credo, a bocca aperta. E ecco subito i Disarmoni. Grazie mille dai Pietramante per questa piacevolissima ospitata, grazie.